Benvenuti a Dedicato. Oggi siamo qui in questa puntata prenatalizia 20 dicembre 2023 e siamo con un ospite veramente importante. È qui con noi per una chiacchierata e per insomma anche qualche consiglio, possiamo dire. Un personaggio veramente importante in Italia, ma non solo, perché è un personaggio musicale che da anni ci accompagna con le sue note e con i suoi suoni. E ve lo presento perché non vedo l'ora. Ecco a voi Alan Sorrenti. Buongiorno Alan, grazie di essere qui con noi. Ciao Erika, grazie della presentazione. Senz'altro mi fa piacere essere qui, soprattutto perché con voi mi sento a contatto anche con una fascia di pubblico che oggi più che mai, sembra strano dirlo, mi appartiene, quella dei giovanissimi, no? Nel tour che ho fatto in estate avevo già potuto constatare con i miei occhi, insomma, che il pubblico alla fine era maggiormente il pubblico giovane. Però ecco, questa cosa si è manifestata apertamente da qualche settimana, perché Figlie Stelle in TikTok è diventata virale tra i giovani. Due settimane fa era al quarto posto, probabilmente ora sarà salita, non lo so. È un momento di riflessione mia, in effetti, su quello che sta accadendo, perché in qualche modo sento che i giovanissimi si stanno identificando in Figlie delle Stelle più, ancora più profondamente, credo, di quanto Figlie delle Stelle sia stata invece quando è uscita, negli anni, seconda metà degli anni 70, insomma. Beh, sicuramente è un brano con dei contenuti importanti e sempre validi. I giovani di oggi molto probabilmente, anche dopo quello che hanno passato nel periodo Covid, di chiusura e di ristrettezze sociali come hanno vissuto, hanno bisogno di avere qualche valore in più, qualche aiuto in più, no? Da noi adulti, a livello comunicativo e a livello proprio anche di banalmente di musica e divertimento. E Figlie delle Stelle racchiude un po' tutto questo, perché è un brano sicuramente orecchiabile e musicalmente valido, ed è un brano che ha dei contenuti e che esprime questa vivacità che nei giovani era un pochettino lasciata andare, no? Col periodo Covid, e adesso finalmente stanno ritrovando nell'ultimo anno e mezzo il loro spirito di giovani e di gioia. E Figlie delle Stelle è un'ottima colonna sonora per questo momento e per questa rinascita che c'è. Quindi io la vedo un po' così. Devo dire che anche sui quarantenni ho visto questa passione verso Figlie delle Stelle. Tutti la conoscono, tutti la cantano e tutti la ballano, quindi è una canzone che è sempre viva, mi viene da dire, no? Ma può essere anche che nel titolo ci sia, chiaramente la musica lo esprime, ma nel titolo ci sia questo messaggio che ci appartiene tutti, cioè che inconsciamente ci sentiamo, è qualcosa che ci dice che apparteniamo a un universo più grande, che non siamo noi, che la nostra vita ha un significato che va probabilmente oltre la realtà quotidiana, non sempre entusiasmante, anzi, certo. Di questi ultimi tempi il contrario, per cui forse contiene qualcosa che la gente inconsciamente sente di essere. Assolutamente. È strano perché quando è nata Figlie delle Stelle faceva parte anche di un cambiamento di costume. C'era Figlie delle Stelle è nata a Milano, in un momento in cui la moda risplendeva a Milano, e appunto anche io come artista, per la prima volta un artista che vestiva degli abiti di designers, quindi insomma era un cambiamento di costume. Ricordo che la prima uscita di Figlie delle Stelle così live fu organizzata in un club che si chiamava Il Divina, era un club notoriamente gay, quindi c'era anche un cambiamento in questo senso, i gay si rivelavano e la sentivano molto questa cosa. Ecco perché dico, infatti al Divina feci uno showcase con addirittura con Grace Jones, era un evento particolarissimo, lei presentava la Via in Rosa allora. Ora, oggi, attraverso tutte queste generazioni, è come dici te, un pezzo che fa ballare, che dà gioia, eccetera. Io lo trovo oggi con i giovanissimi è un pezzo in cui si ritrovano a cantarla insieme e si crea questo senso di coralità che accomuna e che rende uniti e che rende uguali. Pensa che quest'estate appunto io ero in spiaggia la sera di Ferragosto, il DJ ha messo Figli delle Stelle e c'è stato un tripudio, tutti ballavano, saltavano, la conoscevano, la cantavano, quindi vuol dire che non cantavano solo il ritornello, cantavano la canzone tutta, quindi i giovanissimi al 100% proprio, li ho osservati perché mi hanno fatto tanto tenerezza i giovanissimi, ma poi proprio c'è tanto cuore in questo brano, no? C'è un'unione tra genitori, figli, addirittura nonni che cantavano assieme, quindi è stato un momento meraviglioso. Diciamo che è un buon segno, nel senso che almeno per le nuove generazioni è un buon segno questo, certo, che avvenga questo. Naturalmente non tutti i giovani sono così, e poi tengo a sottolineare che comunque la mia musica, la mia attività musicale chiaramente non è solo Figli delle Stelle, ma poi se uno si va a ascoltare, come spero molti, dopo questi eventi, dopo il fatto che Figli delle Stelle è diventato virale, molti si andranno ovviamente a ascoltare le mie prime cose, che sono abbastanza fuori da ogni schema ancora ora. Abbiamo modo sicuramente di parlare assieme di questa tua crescita e cambiamenti musicali. Io adesso manderei Figli delle Stelle a questo punto, lo ascoltiamo assieme e, beh, certo, e ci ritroviamo subito dopo. Stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. studio abbiamo ascoltato Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, che oggi è meravigliosamente qui con noi. Ciao. Questo tuo brano veramente è meraviglioso. Sappiamo ovviamente che hai fatto tanto altro, quindi io adesso parlerei di un argomento che mi interessa molto, perché appunto questa è una trasmissione di giovani per i giovani e con i giovani, quindi so che in questo periodo, in questi tempi, sei veramente molto impegnato con attività, concerti che da prima dell'estate ti portano in giro per l'Italia, e quindi insomma la tua attività artistica procede, no? Alla grande, direi. Ti chiedo di raccontarci intanto che cosa è cambiato nel panorama musicale e come secondo te i nostri giovani di oggi possano affrontare un percorso più o meno professionale nell'ambito della musica, perché io ho tanti ragazzi che studiano musica, chi fa la formazione, quindi proprio diventerà, spero per loro, professionista, chi invece lo fa per passione e quotidianamente però suonano, cantano e studiano musica. E quindi ti chiedo un pochettino qualche consiglio per loro, no? Come si affronta oggi un percorso musicale da giovani? Io penso che questa è una domanda difficile da rispondere, perché non sappiamo bene dove stiamo andando, però senz'altro qualcosa è cambiato, tantissimo è cambiato nella musica innanzitutto. Praticamente Figli delle Stelle era, e una certa mia produzione era, l'ultima fase analogica della musica, poi siamo entrati nella fase digitale. Questa, poi con l'avvento anche dell'elettronica, della musica, le cose, la musica si è senz'altro arricchita grazie a questo. Ma poi l'elettronica ha anche facilitato il fatto di fare dischi, di creare un artista. E quindi tutto è stato abbastanza più facile e quindi automaticamente più veloce. Cioè, oggi assistiamo a una produzione enorme. Un brano o un album addirittura, che allora si parlavano di album, duravano un anno e poi e oltre. Quindi già il modo in cui viene diffusa la musica, che viene diffusa poi parallelamente e contemporaneamente in tutto il mondo, cosa che prima non era neanche così, quindi c'era aspettativa per un album che usciva, c'erano, insomma, c'era un processo che oggi lo ricordiamo, sì, nostalgico, come un fatto romantico, ma che molte volte diciamo, ah, peccato che non sia così, no? Perché in effetti dispiace non viversi la musica più profondamente. Quindi io penso che per un giovane sia estremamente difficile, e io mi verrebbe di fare il discorso che ha fatto David Foster Wallace a un'università. David Foster Wallace è stato uno dei più grandi scrittori della nuova letteratura americana. C'è chi dice che è stato quello che ha rivoluzionato la letteratura americana. Fu chiamato all'università per chi si laureava. Si aspettava un discorso, diciamo, profondo, che vada oltre. In realtà lo era, ma su un'altra base. Lui chiedeva: se siete disposti a fare questo lavoro ogni giorno, in qualsiasi momento, comunque vadano le cose, ok, se no lasciate perdere. È importante capire veramente fino a quanto tu ci tieni a fare musica, perché oggi è ancora più difficile di prima. Perché sembra più facile, perché c'è X Factor o queste manifestazioni. Io personalmente trovo che X Factor è un bello spettacolo, ma è uno spettacolo. Trovo per me difficile dire che qualcuno giudichi qualcun altro così, sulla base di chi. E comunque trovo stranissimo e perverso il fatto che una debba risolvere tutta la sua creatività, la sua vita artistica in un pezzo, in un momento. E se non va, pazienza, lui ritornerà a lavorare in ristoranti oppure a studiare quello che il papà gli aveva detto di studiare. E questo non credo che sia giusto, perché io ho avuto la possibilità nei miei tempi di poter approfondire la mia musica. Nessuno mi diceva che dovevo fare il primo in classifica, poi l'ho fatto, ma è stata una conseguenza di anni di ricerca. Ho potuto esplorare la mia voce ai limiti, infatti le mie prime produzioni erano sperimentali, erano fuori da ogni logica, da ogni schema. Io in effetti in realtà ho imparato a cantare tecnicamente bene in America. Prima cantavo non tecnicamente bene, cantavo con passione, senz'altro con grande creatività, perché ricercavo continuamente. La ricerca è una parte indispensabile in questo lavoro, quindi consiglierei di darsi del tempo e di non rincorrere queste situazioni. Magari ci vai a X Factor con una grande maturità, perché io con questo non voglio neanche dire che, ripeto, è piacevole, è bello da un lato vedere i giovani che si esprimono a X Factor, poi lo spettacolo, la scenografia è molto bella. Però dal punto di vista dell'artista, se uno si sente di fare questa cosa, deve considerare che non può essere quello il porto, il punto d'arrivo. Il punto d'arrivo siamo noi, quello che noi riusciamo a fare. Probabilmente non ci sarà mai un punto d'arrivo, io almeno tutt'oggi la penso così. Certo. Ogni lavoro, ogni progetto è una scoperta di qualcosa di nuovo per me. Quindi concepire la musica e questa attività come scoperte continue nella vita di se stessi, le posso chiamare queste illusioni alla fine, no? Perché uno pensa di aver realizzato chissà che. Sì, no, poi io da musicista ti posso dire che effettivamente il musicista non finisce mai di studiare, non finisce mai di creare, fino all'ultimo giorno, all'ultimo minuto, perché è così, non è un lavoro da cui si va in pensione e non è un lavoro da cui si vuole andare in pensione, perché è il musicista stesso che vuole portare avanti la sua creatività e lo sviluppo dei progetti che ha in testa e che ovviamente crescendo e nel caso nostro poi anche invecchiando si diventa più saggi e i progetti si modificano, cambiano e le idee prendono forma in altro modo rispetto a quando si hanno 20 o 30 anni ovviamente. Quindi sì. Preparatevi giovani, perché non si va in pensione da questo mestiere, insomma, è un mestiere lungo, diciamo. Certo. No, aggiungerei anche altro, che questo è qualcosa che appunto non riusciamo ancora a immaginare, ma noi stiamo andando verso altro. Il mio nuovo album aveva il titolo Oltre la zona sicura, perché volevo proprio esprimere questo, che stiamo in una fase in cui dei riferimenti soliti non ci sono più. Stiamo cercando altro, cioè l'intelligenza artificiale, e dobbiamo in qualche modo stabilire che rapporto abbiamo con essa, visto che comunque ci sarà, non se ci sarà, ma è solo una questione di tempo, quanto sarà presente totalmente nella nostra vita quotidiana. Però può essere anche un fatto positivo se ce la facciamo nostra alleata, e quindi se inculchiamo elementi e valori positivi, belli, della nostra umanità, l'intelligenza artificiale, abbiamo un'alleata che può risolverci molte cose. Quindi abbiamo un quadro davanti incerto e comunque avventuroso. E io mi chiedo, questa è la mia opinione personale, se la musica sarà sempre quella che è stata. Io credo quello che è almeno tuttora è una musica dove ci sono dei messaggi ma sfuggono un po'. Invece che la musica diventi più veicolo di missione, di un messaggio che vi trasmettere, quindi ritornare un po' alla musica che ha un'influenza anche sociale nella gente, nella crescita. Questo senz'altro penso che sia una cosa importante che un po' si è persa. In effetti c'era all'inizio, quando all'inizio degli anni 70 c'era, ma poi si è persa strada facendo. Quindi essere anche non solo musica, insomma, in qualche modo. Nel caso tuo non si è mai fermato questo discorso, perché io ho ascoltato anche dei tuoi nuovi brani da Oltre la zona sicura e effettivamente è sempre stato in crescita questo discorso, quindi non ci sono banalità, ecco, diciamo, in campo. E infatti era poi una cosa che volevo chiederti, di come si è evoluto il tuo percorso artistico. È sempre molto interessante e non è parte di questa musica commerciale che ci circonda, perché nei vari stili e nei vari generi musicali anche in Italia purtroppo, come dicevi tu, le banalità sono all'ordine del giorno, quindi i testi e la comunicazione che si dà attraverso la musica oggi non è più come poteva essere quando cantavi Figli delle Stelle, quando è uscita, ecco. Però nel caso tuo, insomma, fortunatamente questo discorso non ti si addice, ecco, non ci sono banalità, quello ti ringraziamo, no, ti ringraziamo noi per questo, perché c'è bisogno di artisti di questo tipo, insomma, che comunichino e che parlino un po' ai giovani, ma non solo. E io adesso manderei un altro brano che, se vuoi, ci presenti, perché se lo vuoi lanciare tu e presentarcelo, è un brano molto bello che è un po' nel momento di cambiamento tuo. Sì, ero reduce da un viaggio in Africa nel 75, credo. Io ero tra l'altro a Bologna, dove studiavo al DAMS. Ero aperto il DAMS, io, per evitare di fare il militare, mi sono iscritto all'unica università possibile per me in quel momento, che era appunto il DAMS. Tra l'altro, professori importanti c'erano allora, tra cui questo Levi, professore di etnomusicologia. Mi spinse, non intenzionalmente, ma con quello che diceva e faceva, a farmi un viaggio alla ricerca della musica in Africa, dove andai in Senegal. Fu un viaggio grandioso, nel senso, fu un'esperienza innanzitutto di viaggio, di conoscere l'Africa. Anche lì, oltre alla zona sicura, non c'erano i miei punti di riferimento borghesi da cui venivo. E ebbi occasione di registrare tantissima roba sotto questo cielo stellato, e fu per me, in quel momento, fu un'occasione per conoscere qualcosa che non conoscevo ancora, cioè il linguaggio ritmico della musica, cioè il ritmo. Io, come linguaggio musicale, non lo conoscevo fino allora. Il progressive mi aveva portato a elaborare più armonie e vocalizzazioni, sì, un po' di ritmo, sì, con il mio amico collaboratore Tony Esposito, eravamo affascinati dalla ritmica dei King Crimson allora, e quindi c'era uno sviluppo, ma non quello proprio tribale, terreno della musica. E ritornai in Italia con questa rivelazione, e naturalmente il mio produttore, che è stato il mio produttore di sempre, ormai scomparso purtroppo, con cui c'era un legame particolarissimo, perché praticamente io andavo, lui però sapeva dove andavo, io non sapevo dove andavo, io andavo, e lui però sapeva, allora mi aveva già inquadrato, e quindi per lui, che dopo, ritornando così, dice: il prossimo viaggio è l'America. Non c'è altro posto, non possiamo rimanere in Italia, dove allora la musica era anche molto politicizzata. Non ero io quello che poteva fare musica politicizzata, non ero io il cantatore, diciamo, tipico di quel periodo. E infatti andammo in America, da qui ci fu un cambio totale, perché altro che ritmo, ritrovai tutto, era un coinvolgimento totale. Il primo album che registrai in America comunque era a San Francisco, e si chiamava Sientem, It's Time to Let. È tempo da atterrare. Questo è un titolo che l'aveva coniato lui, perché dice: basta con i voli, poi i cosmici, eccetera, o meglio, confuriamoli in qualcos'altro, di più terreno, no? Era il ritmo, era questo. E da qui, poi nel tempo, nacque Figli delle Stelle, eccetera, insomma, e altre cose, perché ebbi l'occasione di incontrare musicisti fortissimi di quella scena musicale allora americana. Los Angeles diventò la mia città del cuore, e il primo album, come dicevo, Sientem, It's Time to Let, l'unico pezzo che non era inglese, che lo cantai interamente in inglese, era un pezzo che ho scritto in napoletano. Napoli era la mia origine, io sentivo che in un contesto inglese poteva essere più speciale un pezzo in napoletano, che è veramente un'altra lingua, anziché fare un pezzo in italiano o cosa del genere. Nacque questa canzone che era un pochettino che parlava della voce che abbiamo dentro. Si sente, era tutta la tua voce dentro, la voce della tua coscienza, perché ce la dimentichiamo, il più delle volte ce la dimentichiamo, eppure stranamente sappiamo che quella non sbaglia quasi mai, insomma, no? Yeah. E era un po' il senso di Sientem, ed è stato quindi il passaggio, perciò volevo presentare questa canzone, perché è stato il passaggio dal prog da cui venivo a poi all'America, e tutto quello che è venuto, e di quello la storia la sapete, insomma. Ok, quindi lo lanci tu questo brano? Allora a tutti voi da Sintomi Stand to Land, questa è Sintoma. Sintoma, sento sta voce che arriva lontana, sento sta voce che canta e chiama e sta parlando senza parole. Oh, sintoma, oh, oh. E cerchi sta mieta gente che ha nisciuto e meglio è nata a parte di ma a stessa razza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sono sicura che dentro fuori c'è una passione che non muore. Oh, sento ma la giurita sento ma sento sta voce che ti amica e te rima già stretta assieme per cerca e capì qualcosa e che sta vita. Che come ormai sapete è qui con noi oggi. Allora Alan, siamo ai saluti finali, quindi io adesso, visto che oggi è il 20 di dicembre, ci tengo a fare gli auguri di buone feste a tutti e anche di buon Natale, nonostante non ci interessi il discorso religioso del Natale assolutamente, né a me né a te credo, no? Ma è un discorso di cuore, è un discorso di stare assieme, di questa unione, no? Anche di cui parlavamo prima, e di comunicazione, e quindi auguri a tutti col cuore, col nostro cuore, no Alan? Infatti Erika dice che vi bene sia te che io in particolare sono buddista dall'88, quindi in tutte le religioni il cuore è quello che più o meno si mette in risalto, ora se poi chi più chi meno. Credo che queste feste siano belle perché i famosi auguri, che delle volte sono estremamente formali, molte volte invece possono solamente mi ricordo di te, ci leghiamo per un attimo con un'altra persona, quindi il cuore è veramente importante in questo periodo, lo è sempre naturalmente, perché anche poi io trovo che questo, oltre alla zona sicura, è di trovare un nuovo essere umano. Rimaniamo quindi, umani. Questo è il mio augurio, di trovare noi esseri umani, nuovi esseri umani. Grazie davvero, quindi restiamo umani, salutiamo Alan Sorrenti, quindi auguri di cuore anche a te davvero e di buone feste. Intanto grazie di essere stato grazie, con noi. Grazie a voi, grazie a te Erika e buone feste serene a tutti. Grazie, ciao.